grazie a tutti i gruppi che hanno suonato qui questa sera, che tra l'altro sono in gran parte degli amici. E quindi è mancata questa cosa dell'XM, perché alla fine siamo tipo una mega famiglia allargata, no? Autogestita, autogenerata e scelta oltretutto. E scema soprattutto, se no non ci piace. Ciao, bambino. Grazie a Fiore, alla quale è dedicato tutto il soldo del mio live all'XM. I love you! Thank you. Yeah. tanto a pensare in questo programma. Grazie. Ho molto perso tutto. Ma io mi ricordo. ultimissimo brano che è stata una richiesta in diretta, cioè Fiore quando mi ha invitato qui mi ha detto: ma avrai ancora Ictus nel repertorio? E sì, stasera sì, e quindi Ictus, ricambio di dare. Voi già la conoscono, ma immagino parecchi di voi già la conoscono. È al contrario di quasi tutto quello che ho fatto questa sera, che fa parte di Kawax, questo fa parte di Nove. Ed è uno degli ultimi brani di Nove con i quali mi piace concludere i miei live. Prima si parlava di Tesla, si parlava di energie, di luce. E questo è un brano dedicato alle pulsazioni proprio. E a proposito di scienziati interessanti, c'era il Ghina, che era il... lo conosci? Era l'aiutante di Marconi, Guglielmo Marconi, quel gran ladro, e di Ghina, che era il suo aiutante, non si ricorda nessuno. In realtà Ghina ha progettato una marea di cose pazzesche, bellissime. C'è un documentario fantastico su YouTube che chiunque può andare a vedere, chiunque ha internet. Chi non ce la sappia che comunque è un personaggio da insomma andare un po' a scoprire, perché è veramente bello. E lui distingueva la vita dalla morte tramite le pulsazioni, quindi diceva: tutto ciò che emette vibrazioni e pulsazioni è proprio pulsa, è vivo, ciò che non emette pulsazioni non è vivo. Ora, il 99% delle cose che ci circondano emettono pulsazioni, anche le pietre, che secondo Tesla erano degli esseri molto, sono degli esseri molto sensibili e pensanti, emettono pulsazioni, quindi insomma anche il pianeta Terra emette pulsazioni, noi esseri viventi le mettiamo di conseguenza. C'è una serata proprio ricchettona, l'XM24, le pulsazioni, la luce dell'energia. E quindi grazie per aver scambiato tutte queste vitalità pulsanti insieme questa sera, grazie per aver creato questa serata, grazie a Frigotecniche, grazie a questo luogo meraviglioso, grazie a voi che siete qui per fare tutto ciò. Ricordatevi pure di Radio Onda Rossa, che vive di frequenze di pulsazione, che sta un po' nella merda, quindi continuiamo a farla pulsare. Grazie a chi sta dietro la cabina mixer a lavorare e a fare tutto ciò insieme. Grazie a voi, grazie ancora a tutti insieme.